Mine Vaganti di Federico Taddia. Il mare sembra essersi così, essersi ricordato della sua veste un pochettino più aggressiva, e mi ha fatto trovare nell'ultima settimana vento molto forte, mare molto agitato, che insomma imperversa tuttora adesso e mi rende difficile dormire, mi rende difficile mangiare, rischio sempre di infilarmi, non so, le forchette negli occhi, anche solamente, non so, fare la pipì diventa difficile. 18.000 km di navigazione, 294 giorni in mare aperto, 15 milioni di remate, questi sono i numeri di Alex Belini, della sua traversata remi dell'Oceano Pacifico, ed è lui l'ospite della puntata di oggi di Mine Vaganti. Ciao Alex. Buonasera, buonasera a tutti quanti, che piacere essere qui con te oggi. Insomma, Alex, è quasi un'emozione per noi. Tra l'altro prima parlavo con Paolo, il nostro tecnico, che diceva c'è Alex, io ho letto il suo libro. Sì, è qui. E buongiorno. Bene. A voi, Mine Vaganti, in diretta dagli studi di Radio 24, per tenervi compagnia in questa domenica pomeriggio. Come sempre tanti ospiti, come sempre andiamo alla ricerca di persone che hanno delle idee, che hanno dei sogni. Queste idee, questi sogni riescono a realizzarli, e oggi parliamo di un grande sogno, di un grande progetto, e lo facciamo appunto con Alex Bellini, autore anche di questo bellissimo libro, perché racconta con intensità, tra l'altro è scritto a doppia penna, perché si alternano lui e la moglie Francesca nella scrittura, Il Pacifico a remi, i miei 300 giorni da solo sull'oceano, edito da Longanesi. Alex, ce l'hai fatta? C'è tutto l'Oceano Pacifico. Sembra tanto, eh? No, è tanto. Cioè, quando lo guardi col mappamondo alla mano, allora sì, sembra tanto. Però ti devo dire una cosa, devo rivelarti una cosa. Quando sei in mezzo al Pacifico, è vero che sono tanti giorni, perché 300 alla lunga sono un bel numero. Ma strada facendo, lo passi, insomma, il Pacifico è formato da 300 giorni, quindi giorno dopo giorno uno riesce a sopravvivere a questa lunga monotonia, a questo lungo viaggio. È un po' la filosofia che mi porto anche a casa, no? Quindi vivere il giorno come se fosse l'ultimo, come se fosse l'unico giorno sulla Terra. E tanti rischi, tanti momenti di esaltazione, tanti momenti di paura che racconti, e che insomma migliaia di persone hanno navigato con te, perché al di là della eccezionalità della tua impresa, la cosa bella è che su quella barca remi non eri solo, perché ti collegavi quasi quotidianamente col web, rispondevi alle email, rispondevi ai messaggi, collegamenti radiofonici, e da cui abbiamo estrapolato anche qualche spezzone. Tutto ciò bastava per non farti sentire solo, tutto ciò ti dava la forza per andare avanti. Guarda, il web, i collegamenti satellitari, la radio sono stati i canali attraverso i quali io sono riuscito a raccontare me stesso, a portare me stesso nelle radio, nelle macchine degli italiani, negli uffici, proprio ovunque. Non era un qualcosa che mi potesse aiutare a superare la grande noia, la solitudine. Anzi, la solitudine per me è sempre stato un lusso. Io volevo regalarmi questi 10 mesi per vivere un'avventura che non avrei potuto vivere da nessun'altra parte. Un'avventura che potesse portarmi a conoscere le mie stesse potenzialità. Io sono sicuro che le potenzialità degli esseri umani siano immense, ma c'era bisogno del racconto di una persona perché tutti quanti ne avessero consapevolezza. Ecco che in questo senso entravo io, quindi proponendomi anche in una veste alcune volte ironica o comica, come in quest'ultimo in questo clip che abbiamo sentito, proprio per raccontare che dopo tutto l'uomo è fatto di quella pasta capace di poter anche rendere realizzabile qualcosa di impossibile. Però nella vita quotidiana non ce ne rendiamo quasi conto. Quindi se erano imprese del genere, ma vogliamo parlare di limiti. Se anche voi vi siete resi così protagonisti di un qualcosa, anche di una vostra scelta quotidiana, o di una scelta forte, o di una scelta estrema, anche voi avete tentato di fare un'impresa o di superare questo vostro limite, ne vogliamo parlare in diretta 349-238-6666, per farlo via SMS oppure attraverso il numero verde 800 800 24 00 24, le vostre grandi e piccole imprese. E andiamo a parlare di altri limiti, andiamo a parlare anche di morte, però, perché nel momento in cui stavamo preparando questa scaletta ci è arrivata la notizia, ne volevamo parlare perché avevamo preso contatti con lui. E il campionato nel mondo di sauna sembra quasi una bizzarria, invece è una gara importantissima, è dal 1999 che si tiene in Finlandia, però proprio il campione in carica, notizia di oggi, è deceduto durante una prova. Però Simone Tartaglia, 33 anni, di Pietrasanta, Lucca, l'unico partecipante a questa gara, ha accettato il nostro invito ed è qua con noi per raccontarci quello che è successo e quello che ha visto. Buon pomeriggio, Simone. Buon pomeriggio. Come stai? Oggi nei miei programmi nella mia città in Finlandia sarei voluto andare a Helsinki, ma visto quello che era successo durante la competizione, ho preferito essere più tranquillo in un parco nazionale all'interno della Finlandia. Ovviamente la notizia di questa morte ha fatto il giro del mondo. E lì qual è stata la reazione? Voi eravate in gara, vi conoscevate anche, tu stesso avevi già partecipato. Qual è stata la prima cosa a cui hai pensato? Allora, io al primo anno che partecipo, sono l'unico italiano partecipante quest'anno, e la mia gara di competizione l'ho fatta il giorno prima, però ero praticamente sul palco poco prima delle finali, perché c'era l'occasione un po' di fare una sauna dimostrativa prima delle finali, per cui sono stato anche nel backstage e ho visto i finalisti sia della competizione femminile che la competizione maschile prepararsi per poi andare a fare il loro gare. E poi quando ci sono state le gare ero in prima fila e praticamente nessuno si aspettava un epilogo del genere da parte, sì, si aspettava un duello tra questi due grandi campioni, tra il finlandese Timo Kaukonen e il russo Vladicinski, ma nessuno immaginava una cosa del genere. Come funzionano le gare? Ce lo puoi spiegare? Le gare sono di resistenza, praticamente si ha un numero chiuso al massimo di 6 persone, dove generalmente passano le due persone che rimangono più a lungo all'interno della sauna e le altre 4 vengono eliminate, a grandi linee. Tutto questo vale, ma non nella finale, perché si deve determinare chi vince, quindi da oltranza. Perché si è arrivati alla tragedia? Io penso che queste persone abbiano avuto una concentrazione mentale talmente esasperata che li ha portati oltre le loro capacità di coscienza, molto probabilmente, perché il russo negli ultimi secondi ha perso mobilità e forse il finlandese se ne è accorto e ha cercato magari toccandolo, però è un'ipotesi. E anche dal punto di vista esterno è difficile valutare. Esiste un sistema di controllo con gli arbitri che ti bussano al vetro e ti cercano un check con il pollice, e questo ti testimonia la presenza di coscienza, insomma, del partecipante, però è difficile valutare questa cosa. Simone, tu sei stato dentro a quella sauna, quant'è la temperatura? Sì. E per quanto tempo sei rimasto? Sì, la sauna da competizione è una sauna molto calda, a secco in partenza sono circa 110 gradi centigradi e un'umidità bassissima, intorno al 5%, poi ovviamente ogni 30 secondi viene asperso circa mezzo litro d'acqua, l'umidità ovviamente va crescendo. Io ho partecipato alla competizione e sono stato eliminato al first round realizzando un tempo di 2 minuti e 38 secondi, ma già nelle prove del giorno precedente mi ero accorto che, nonostante la mia lunga preparazione e il tipo di competizione, era veramente tosto e mi consideravo in parte non preparato per una cosa del genere. Ecco, ma come ci si prepara a una gara del genere? Allora, io premetto che non, prima di quest'anno vere e proprie saune non ne ho fatte. Io faccio parte di un'associazione che propone diversi esercizi tipo sauna, ma che comunque non sono sauna. Poi nel tempo, due anni fa, sono venuti a conoscenza di questa competizione e quindi quest'anno ho alternato vere e proprie saune finlandesi in una struttura pubblica, quindi a temperature insomma standard, anche se ho cercato di forzare un po' con l'acqua, e facendo anche queste pratiche in natura con le pietre di fiume arroventate. Tutte queste esperienze sono ben lontane dalla realtà della gara, perché lì utilizzano resistenze elettriche che io mi sono stupito anche della potenza, perché mi hanno parlato di potenze oscillanti tra i 18 e i 30 kW, che non sono poche. Simone, ma perché si sceglie di partecipare a una gara del genere? Ma come tutte le gare off-limits, la ricerca dei propri limiti, l'affermazione, è una competizione, no? Quindi la mia finalità è vincere. Ti sei pentito di aver partecipato? No, in generale no. Non penso di ripetere la cosa, ovviamente, perché non mi aspettavo questo, anzi non se l'aspettava nessuno, perché in realtà quello che si respirava all'interno della competizione era un clima di festa, tant'è vero che in piazza c'erano i banchetti, fuori c'erano cantanti, poi la sera hanno trattenuto le persone con dei canti folcloristici finlandesi, cioè veramente una cosa simpatica. E poi tra l'altro anche poco prima delle saune della finale sono state fatte delle saune per sdrammatizzare proprio, addirittura hanno fatto una sauna tra arbitri e speaker, e poi questa sauna dove c'ero anch'io prima della finale, dove praticamente comparivano alcuni stranieri che erano stati eliminati dalla competizione e addirittura un bambino. No, e tutto era abbastanza improntato sulla distensione, ecco. Grazie Simone per essere stato con noi e buon ritorno in Italia. Saluto tutti, arrivederci. Mine vaganti. Mi chiamo Alex Bellini, ho 32 anni, sono nato e cresciuto in montagna, in Valtellina, alla Prica. La mia è una storia di coraggio. Coraggio, che bella parola. Sono un montanaro prestato al mare, nel senso che attraverso gli oceani in barca a remi, in solitaria. Mi sono appena capottato un attimo fa con il Pacifico, da Lima, in Perù, a Sydney, in Australia. Che ne dite? Non è una figata? C'era qualcosa nella desolazione infinita dell'oceano che mi stava chiamando a sé. Però l'acqua non era più acqua, era la strada che mi separava dalla persona che ero alla persona che volevo essere. Alex Bellini, un montanaro prestato al mare. Questo è un trailer di un documentario che uscirà a settembre, sì. Che racconta un po' le tue imprese. Si intitolerà Onde, come onde sono state le tue compagne di viaggio in questi 294 giorni. Onde amiche, che a volte ti accompagnano, ma onde soprattutto nemiche, perché queste onde ti hanno fatto rischiare la vita quante volte? Guarda, tutti i giorni arrivare al momento in cui chiudevi il boccaporto per ritirarti, per andare a dormire, era una scommessa vinta, perché quando ti svegliavi la mattina era totalmente l'incertezza, ecco, l'incertezza regnava sovrana. Dietro ogni onda si poteva nascondere l'ultimo mio secondo di quell'avventura, e spesso le onde erano alte delle montagne. Io che sono un montanaro, quindi in qualche maniera ritrovavo i ripidi sentieri di montagna in mezzo al mare. E onde anche come le onde della vita, che la vita alle volte è fantastica, ci si sente degli eroi, il giorno dopo invece hai a che fare con momenti di grande sconforto, con salite impervie. Insomma, molte metafore, molti sinonimi con la vita in mare. Parliamo di limiti oggi, e se anche voi li avete superati, i vostri limiti, se anche voi avete compiuto la vostra piccola o grande impresa, 349-238-6666 per i vostri messaggi via SMS, oppure 824-0024, il numero verde. E Alex, cosa ci fa comunque Montanaro con i remi? Nel senso, da dove nasce la scelta di affrontare l'oceano, gli oceani? Perché tu hai fatto prima l'Atlantico e poi il Pacifico, da solo, con una barca. È nato dal desiderio di liberarmi da questo compagno scomodo che era diventato il sogno di attraversare un oceano. Alle volte la gente si sorprende quando dico che è proprio stato un colpo di fulmine, una sorta di chiamata, non direi vocazione, ma all'incirca. Io col mare non c'entravo nulla, non avevo mai messo piede su una barca prima di salpare per la prima traversata, non avevo mai visto il mare aperto direttamente dal mare. Certo, mi ero visualizzato alcune scene, però molto, molto così, a digiuno, ecco, da tutto quello che concerne il mare. È stato un proprio... Diciamo che se di coraggio si può parlare, il coraggio è stato proprio il momento in cui ho deciso di accettare l'idea e di affrontare l'ignoto, perché il mare per me rappresentava veramente l'ignoto. A differenza di altri, però, io provo grandissimo piacere nel sperimentarmi in condizioni sconosciute, quindi uscire dalla mia zona di comodo e per andare a cercare me stesso in funzione anche degli ambienti che ci circondano. Ecco, ma quanta follia c'è, nel senso che nel libro Il Pacifico a Remi c'è una bellissima foto di tu che dai un bacio a Francesca, tua moglie, l'ultimo bacio prima della partenza, poi sei su questa barca e davanti a te hai l'oceano, cioè una cosa abbastanza grande. E sapevi, eri consapevole che forse poteva essere anche l'ultimo bacio, per esempio, nel senso il rischio l'avevi messo in conto? Il rischio l'avevo messo in conto non solo io, ma anche Francesca, che mi seguiva non solo come Penelope nella saga di Ulisse, ma proprio anche come seguiva la parte comunicazione, ufficio stampa, rapporto con gli sponsor, quindi era direttamente coinvolta nel progetto. Ma quando mi chiedono se si parla l'incoscienza, io ogni tanto mi trovo, per questioni di lavoro, a viaggiare molto in macchina, mi trovo sfortunatamente anche sulle tangenziali molto trafficate. In quel caso lì mi dico, ma chi è veramente incosciente? Chi passa le ore della propria vita incolonnata in autostrada, o chi fa della propria vita l'avventura più bella che può fare? Quindi cercare di renderla unica anche nelle piccole cose, non per forza arrivare ad attraversare un oceano, però cercare di soddisfare se stessi, no? Ognuno proprio modo. Ti ha aiutato di più il tuo fisico o la tua testa? 100 volte la mia testa, perché il fisico, mi ricordo una traversata dell'Atlantico, dopo la prima notte dopo il primo giorno, ecco, nel momento in cui stavo andando a letto, ho pianto dalla fatica, pensando a tutta la fatica che avrei dovuto fare prima di raggiungere Fortaleza. Sempre solamente testa, guarda, perché senza di questa arriva un certo punto che i muscoli non reggono più, allora si cade un po' come un fico, no? Invece essere sopportati e sostenuti da una grande testardaggine tipica dei montanari, se così vogliamo parlare, no? Quello sì. E poi ci si mettono anche le meduse. Ha incontrato tantissimi animali, ma c'è un passaggio del libro che fa anche ridere, perché ha avuto rapporti molto ravvicinati con le meduse. Una, per esempio, ti ha beccato proprio sui digitali. Ah sì, sì. Sui genitali, scusa, ed è stato un momento... abbastanza comico, sì, ecco. Fortuna ero da solo, altrimenti saremmo ancora qua a vedere delle candy camera di Alex alle prese con le meduse. Bisogna stare molto attenti, non c'è da dire. Quando appena abbassi l'attenzione, appena ti fai prendere un po' dal piacere della navigazione, ecco che il mare viene e ti punzecchia per dirti alta attenzione, insomma, tieni gli occhi aperti. Bastava veramente fare un piccolo bagno in acqua per rinfrescarsi, o per pulire la carena che ogni tanto facevo, per prendersi di quelle urticate da queste meduse che spesso non vedevi neanche, ma le sentivi molto, molto chiaramente. Continuiamo a parlare di imprese e lo facciamo camminando insieme a Forrest Gump. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di... E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. corsi fino all'oceano. E una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Quando ero stanco, dormivo. Quando avevo fame, mangiavo. Quando dovevo fare... insomma, la facevo. E così, lei ha corso e basta. Perché corre? Lo fa per la pace nel mondo! Lo fa per i senza tetto! Corre per i diritti delle donne! Oppure per l'ambiente! O per gli animali! Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre! Ma perché fate questo? Chissà quante volte vi siete sentiti dire, fare questa domanda ad Alex Bellini, lo chiedo, ma lo chiedo anche a Vincenzo Catalano, che ha appena concluso anche lui una sua piccola impresa. Ciao Vincenzo! Ciao, ciao! Ti abbiamo svegliato, vero? Sì, la verità è sì, però... Era una sveglia concordata, quindi... Sì, sì, esatto. Allora, Vincenzo Catalano, tu sei un architetto, sei un milanese, ti sei trasferito a Desenzano. E esatto. Hai compiuto questa tua impresa in queste in quante ore? Una cinquantina di ore? No, 41. 41 ore in cui hai nuotato per 8 ore, hai nuotato per 8 chilometri nel lago di Garda, dopodiché esatto. Hai fatto l'intero giro del lago di Garda in bicicletta? Sì. E una volta arrivato hai appoggiato la bicicletta e hai cambiato senso di marcia, credo, e te lo sei rigirato tutto, ma questa volta di corsa. Esatto, esatto, sì. E questo ho iniziato a farlo venerdì alle 17 in compagnia di un gruppo di amici letti di Desenzano che mi hanno accompagnato e supportato per ogni trazione, chi solo per il nuoto, chi si è dato il cambio durante le ore di notte in bici e poi c'è stata la staffetta finale di amici che si sono avvicendati durante la corsa a piedi, insomma. E appunto, sì, come hai detto tu, ho compiuto questa, insomma, impresa, mi sembra un termine un po' eccessivo. Mega Ironman. Tu fai gare di Ironman, no? Quindi questo triathlon versione XL, se non erro. Sì, io ho iniziato a fare gare Ironman, poi mi sono spostato agli Ultra Ironman e sono arrivato a correre 5 volte il Deca Ironman. E quindi doppi Ironman, tripli Ironman, quintupli, diciamo che le distanze che ho coperto negli ultimi 2 giorni e mezzo rappresentano una via di mezzo tra un doppio Ironman e un triplo Ironman. Le distanze non sono, di solito c'è sempre una specie di, come dire, di proporzione tra una distanza e l'altra. Qui il nuoto e la bici erano in misura un po' deficitaria rispetto alla frazione di corsa, che era la parte più consistente. Ecco, però siccome l'anno scorso avevo compiuto solamente un giro di corsa del lago di Garda. Solamente un giro fa un po' ridere, però te lo concediamo. Però scusa Vincenzo, nel momento in cui hai terminato il tuo giro in bicicletta e sei sceso dalla bici e nella testa davanti a te avevi 25 ore più o meno di corsa, ecco, cos'hai pensato in quell'istante? Che mi sarei divertito un sacco. Quindi, È importante capire cosa pensa un atleta in quelle situazioni, perché si rispondono a tante domande. E ho pensato che avrei visitato i luoghi della palestra naturale, che è teatro quasi quotidiano dei miei allenamenti, e quindi è stato, come appunto ho detto alle persone della io ho compiuto questo allenamento, insomma, in occasione di una festa che viene tenuta in una frazione di Desenzano, una festa di paese che si tiene in una spiaggia molto frequentata, e come dicevo appunto a tutti i visitatori, a tutti gli ospiti che mi hanno applaudito durante i cambi, durante la partenza, appunto dicevo che ho voluto compiere, insomma, ho voluto fare questa prova proprio per due motivi. Prima di tutto per divulgare un po', per far conoscere alla gente le caratteristiche di questo sport, magari non tanto come distanza, perché mi rendo conto che le distanze che faccio io sono un po' impegnative. Abbastanza. Però molte persone confondono il triathlon addirittura con il trial, quindi quando si dice in giro che fai triathlon, ti chiedono ma la moto sì. Dove ce l'hai? La moto ce l'hai dentro, ecco. Perché sennò queste appunto non potresti fare tutti questi chilometri. Vincenzo, complimenti, tra l'altro nel preparare la puntata ti abbiamo chiesto ma perché hai iniziato a correre, tu hai detto perché da piccolo ero cicciottello, ho provato a correre, mi piaceva e da lì non ti sei più fermato. Sì, esatto, è stata una delle motivazioni, non quella principale. Come hai detto prima, i pensieri ricorrenti durante diciamo le ore di corsa a piedi o durante le ore di bici erano quelli legati a una condizione di privilegio che ritengo di avere, il privilegio di essere una persona fortunata, sana, che può disporre del proprio corpo in assoluta libertà, senza fare del falso buonismo, moralismo, sì. Riferendosi a persone magari meno fortunate. E appunto avevo la possibilità di visitare tutti questi luoghi nel cuore della notte, quindi in silenzio, quindi senza persone. Insomma, una bellissima e doppia cartolina dal lago di Garda. Vincenzo, complimenti, ti lasciamo andare a dormire. Grazie per essere stato qua con noi, a Mine Vaganti. Grazie a voi, buona continuazione. I vostri interventi, se anche voi superate i vostri limiti o quali sono state le vostre imprese, 349-238-6666 per farlo via SMS, 800-24-0024 è il numero verde. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. Abbiamo scomodato Arigliano con i suoi 20 chilometri al giorno per reintrodurre Alex Belini, il Pacifico a Remi, i miei 300 giorni da solo sull'oceano, Longanesi, libro che racconta un'avventura, che racconta un'impresa, ma che racconta anche una storia d'amore, perché sì. Insomma, tu non facevi 20 km al giorno, quante miglia facevi al giorno? Ne facevo mediamente 30, ciò vuol dire tra i 45 e i 47 km al giorno. Fino a quando non hai rotto l'ancora, perché lì andavi avanti e indietro, giusto? Sì, guarda, è stato un patimento. L'unica cosa che mi permetteva di fermarmi o comunque di ridurre la velocità di deriva nei momenti in cui dormivo era proprio questo strumento che si chiamava ancora galleggiante, una sorta di paracadute che buttandolo in acqua la barca veniva frenata proprio dall'effetto della corrente, della deriva. Un bel giorno, non ricordo esattamente quando, ma comunque diciamo prima della metà della traversata, tutte le ancore galleggianti che avevo a bordo mi erano state strappate o dal vento, quelle invece strappate proprio perché dalle furie del mare. E allora uno, in quel caso lì, mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo, quindi sacche stagne da buttate in acqua, cercavo di barcamenarmi, ecco, con quello che potevo. Ecco, diciamo una storia d'amore, perché Francesca era lei con cui comunicavi più volte al giorno, sì. Fino a quando il satellitare ha funzionato, perché certo. Anche lì hai avuto dei problemi. E questo pensiero che l'avresti rivista, cioè era il pensiero costante, era la tua benzina? Sì, era la mia benzina, era il mio faro. Sai che i navigatori, quando vedono un faro, individuano anche la zona, il porto di la zona di ingresso al porto. Per me il faro rappresentava proprio il richiamo verso la terra, e Francesca creava questa energia, quella che mi faceva prendere in mano tutte le mattine quei benedetti remi, mi faceva mettere su quel carrello e, e remata dopo remata ho compiuto quella distanza che mi separava da lei. È stata una forte punto d'appoggio anche nei momenti di grande difficoltà. Non ce ne sono stati parecchi, ecco, dovremmo magari spendere milioni di parole per raccontare tutta l'avventura, però ecco, in questa avventura ci sono stati momenti di grosse crisi affrontati anche grazie a lei, perché sì, era una navigazione in solitaria ma anche di coppia, come hai detto bene tu. Ecco, però ti si rompe il dissalatore e Francesca non può aiutarti da casa, ti si sono rotti quanti pannelli fotovoltaici? 4 su 7. Quindi 4 pannelli solari, poi sì, non fotovoltaici, sì. Scusa, pannelli solari 4 su 7, Francesca da casa non può aiutarti, sei là da solo, come fai in quei momenti? Sai, spesso le difficoltà o i problemi si risolvono solamente ed esclusivamente con l'atteggiamento giusto. Quando ti si rompe qualcosa che reputi indispensabile alla tua navigazione, è facile cadere in uno stato di crisi, ma con un po' di insistenza, un po' di forza riesci anche a vedere tutto quanto sotto un altro punto di vista. Ti rendi conto magicamente che poi la tal cosa non è esattamente indispensabile alla tua navigazione, serve solamente la capacità di razionalizzare il momento. E l'aiuto di Francesca era proprio questo, cercare di prendermi per un attimo e strapparmi da quella barca e farmi vedere la situazione da un altro punto di vista, e tutto risultava più fattibile nonostante tutto. Ero senza remi, eppure cercavo di riparare i remi che avevo ancora a bordo, il dissalatore, sai, sono grosse batoste al morale, eppure e magicamente uno trovava le forze e le risorse per proseguire. Anche se nel libro racconti che quando si è rotto quel dissalatore per la prima volta ti sei sentito solo, per la prima volta, sì, hai avuto veramente paura di non farcela, perché la paura era quella di non arrivare alla meta. Sì, non tanto la paura di non arrivare alla meta quanto la paura di non raggiungere più la terra, e ciò avrebbe significato probabilmente la mia stessa incolumità. Erano paure spesso irrazionali, perché non erano effettivamente paure che si sarebbero, cioè pericoli che effettivamente che si sarebbero potuti realizzare. È solo che quando sei in mare non hai punti di riferimento, non hai possibilità di decidere adesso basta, stop, mi fermo qua e sto qua fermo un giorno, quindi è tutto in questo terribilmente noioso movimento. Hai giusto il tempo di pensare rapidamente a quello che puoi fare, devi agire, ecco, l'azione deve essere rapidissima, devi prendere delle decisioni rapide. Vi abbiamo chiesto di chiamarci 800 24 0024 per raccontarci anche i limiti che voi avete superato, oppure le vostre piccole o grandi imprese. Dalla provincia di Roma ci chiama Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona domenica. Ciao a tutti, buonasera, complimenti a questo meraviglioso navigatore. Ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno. La tua esperienza mi ha fatto ricordare la mia, perché quando tu dicevi prima che la mente cioè come la cabina di regia che riesce a darti la forza di volontà necessaria, quella suppletiva di fronte alla difficoltà, mi sono ricordato che io per motivi economici al secondo anno di università non feci il rinvio, perché dopo la laurea non potevo permettermi di stare 18 mesi a fare il militare. Non facendo il rinvio fui chiamato alle armi e nei 18 mesi di militare sono riuscito a farmi 5 esami di università con i famosi permessi del capitano, no? C'era tutta una procedura abbastanza semplice, mi mandavano lo statino da casa, io lo presentavo al capitano e lui mi dava la licenza, eccetera. Qual è stata l'impresa? È che di giorno facevo un corso speciale a Spoleto, alla scuola allievi comandanti di squadra, e che la sera ero stanco morto. Allora facevo, ma io come faccio? Come faccio? Sono venuto qui con l'intenzione di farmi il militare durante questo periodo universitario, dovevo fare questi esami. E andavo a studiare, perché era l'unica luce sufficiente per poter leggere i libri che mi mandavano, nei gabinetti. Ecco. C'era un corridoio con i lavandini, i gabinetti, io stavo là seduto sulla tazza del cesso e mi leggevo questi libri e studiavo. E devo dire che, insomma, mi sono fatto 5 esami, che vi assicuro che non sono pochi, perché erano tutti esami di un certo peso, e lì ho scoperto quante potenzialità ha la mente. Ah, scusate, quindi... per un attimo pensavo il bagno, tutti hanno pensato a quella cosa lì, e invece la mente, certo, che può essere, è un sostegno fondamentale. Sì, perché poi uno cerca anche di straniarsi un po' dal posto in cui si trova, no? Perché un po' anche era una fuga, no? Quella di studiare dalle fatiche di questo corso speciale, no? E quant'altro, insomma... Allora io ho scoperto che, per esempio, ho imparato a leggere a una velocità pazzesca che ancora a 62 anni mi rimane, Io comincio per esempio adesso a leggere libri dall'indice, e comincio a escludere, questo argomento lo conosco per altre vie, quest'altro lo conosco per altre vie, all'incirca ovviamente, no? E quindi parto sempre dalle cose che sono nella mia cultura le più distanti e le meno conosciute, e di questo l'ho imparato lì, la forza di volontà della mente che poi ti dà, immaginiamo il giorno dopo che ho passato una notte quasi praticamente in bianco, a rimettermi addosso tutti i pesi di queste esercitazioni e quant'altro, e sono uscito fuori molto bene dicendo: ma guarda un po', e chi se lo fosse immaginato prima non ci avrei creduto. Grazie Giuseppe per essere stato con noi. È un piacere, bellissimi tutti quanti. Ciao, ciao. Tre giorni fa ho avuto un altro incontro con uno squalo, ma questo è stato addirittura veramente qualcosa da brivido, perché l'ho incontrato lì di notte. Stavo scrivendo l'aggiornamento per il diario di bordo del sito, esco fuori con la torcia frontale puntandola nell'acqua e trovo girando molto molto agitatamente, non come uno può immaginare uno squalo che nuota così pacifico e mansueto, questo era molto molto agitato, e la cosa che mi ha fatto più impressione è vedere gli occhi, sapete, quando un po' come i felini nella savana quando vengono abbagliati dalle luci delle jeep, no? Che emettono quella specie di luce dagli occhi, no? E sì, esco di notte, vedo questi occhi da tigre, da felino, immersi nell'acqua, tipo anche un alligatore più o meno, no? All'inizio mi iniziano a ballare le gambe un po' come, insomma, un po' decisamente, poi mi ricordo sempre quella piccola frase nel mio libro dei pesci, dove si dice che alcuni pesce alcuni squali hanno della carne molto buona. Allora mi sono fatto tentare, ho preso in mano il fucile, no. Però non so effettivamente se il fucile mi serviva più per difendermi dall'attacco possibile dello squalo, oppure per cibarmi. In realtà era uno squalo medio, perché superava sicuramente il 1,70 m, ci stava per tutta la larghezza della barca, e credo che con un piccolo fucile da pesca come il mio mi avrebbe portato in giro. Alex Belini, la sua voce dalla Pacifico. Alex, sei là dopo decine di giorni da solo in mezzo all'oceano, preferisci non vedere nessuno o preferisci incontrare uno squalo? Preferisco non vedere assolutamente nessuno, guarda. Assolutamente, sì. Avevi paura per davvero? Sì, avevo paura, e in alcuni momenti l'unica cosa che mi separasse veramente probabilmente da una fine indecorosa era proprio quel 5 mm di vetroresina della mia barca. Paura davvero. Quella che state ascoltando si chiama La lingua degli uccelli, una composizione che è stata realizzata all'interno di una grotta in questi giorni. Parliamo di mine vaganti, parliamo di persone che fanno scelte altre, scelte non banali. Beh, la scelta del compositore Mario Mariani è stata quella: dall'11 luglio vive, suona e registra nella Grotta dei Prosciutti sul Monte Nerone in provincia di Pesaro Urbino. Da lì uscirà l'11 agosto, sta facendo questa sorta di sperimentazione, sono concerti a impatto zero, con lui ha solo un cellulare, questo cellulare prende solo quando esce dalla grotta, e in questo momento è uscito dalla grotta per noi. Ciao Mario! Ciao a tutti, ciao. Ciao! Tra l'altro volevo dire, ascoltavo quella musica, dicevo ma caspita, ma mi sembra, in realtà non l'ho riconosciuta come la mia musica, dicono messo una cosa di Messiaen, Ligeti, perché in realtà le musiche, come dirò tra poco, sono improvvisate, cioè sono create proprio estemporaneamente, quindi l'ho proprio incisa, mi sono quasi dimenticato di averla. Comunque ecco, non era malaccio l'effetto. Adesso, no, se posso permettermi un'autocritica così. Mi sembra, oggi tutto ti è concesso, visto che vedi anche il sole, quindi sì. Tu dici, è quasi più facile portare un pianoforte a coda all'interno di una grotta che in uno dei tanti teatri italiani. Assolutamente sì. La tua è una provocazione? La mia, beh, è una provocazione purtroppo, però diciamo data da una realtà di fatto, perché in effetti oggi ci sono veramente burocrazie, tra istituzioni inciuci, per riuscire appunto a proporre un'idea artistica nelle sedi istituzionali, devo dire che è molto più facile crearsela da sé questa sede, quindi mi sono scelto questa grotta e sono il direttore artistico qui di questa grotta, mi sono autocommissionato appunto questo lavoro. lavoro. Ma ho visto qualche foto, c'è un pianoforte, sì, un gazebo sopra all'interno di questa grotta, ed è casa tua per questo mese. Ho chiesto il permesso al comune di Piobico, che oltre non solo me l'ha accordato, ma mi ha dato veramente un grande sostegno. Un sostegno di tipo pratico. Sentivo che prima parlavate sulla volontà. Ecco, questa cosa è una cosa fatta a budget zero con la volontà delle persone. Per dire, tutti, la prima domanda che mi chiedono le persone che entrano in grotta e vedono, diciamo, appunto questo mezza coda, perché non è un pianofortino verticale, è un pianoforte mezza coda, dico: ma come hai fatto a portarlo? Semplicemente con un trattore sino, diciamo, al soffitto della grotta, vicino all'impianto fotovoltaico, sì, poi parleremo pure di quello, e poi con la volontà di 15-20 persone che con le funi, sindaco compreso, hanno praticamente portato, carreggiato questo pianoforte fino a poi all'ingresso della grotta. Ma vive, mangia e dorme. Sì. Vive, mangia e dormi lì, no? Ti sei organizzato? Certo, diciamo, mangio anche fuori, ecco, non è una residenza, non è una clausura, quindi comunque sto anche fuori, perché diciamo il bagno è fuori, ecco, per dire. Benissimo. Un'altra cosa tecnica che mi si chiede, c'è il bagno e poi c'è anche una stanza degli ospiti, una dépendance, che è una tenda a 5 posti che ho messo per gli ospiti, i musicisti o gli amici. Perché lì fai concerti e la gente si deve fare una camminata, entrare, sì, in grotta, e tu suoni per chi arriva, per chi, esatto, passa. Questo è il biglietto. Il biglietto è proprio questo qua, non chiedo soldi, qui non ci sono soldi. Ed è una cosa, secondo me, molto importante dimostrare che con le idee, soprattutto con la volontà, questa bella parola, si possono fare le cose, al di là di crisi, cioè di vario tipo. E quindi le persone arrivano, tra l'altro non è neanche così ben segnalato tutto, cioè ho dato delle indicazioni sul mio sito, però comunque non ho messo cartelli, freccette, quindi ognuno si deve ingegnare, e questa è una bella selezione, perché arrivano le persone che devono arrivare. Il tutto a impatto zero? Il tutto a impatto zero, perché l'energia elettrica che mi serve fondamentalmente per due cose: per mandare il fotovoltaico, sì, quindi il pianto fotovoltaico, l'energia elettrica data dal fotovoltaico, mi serve per mandare un sistema di deumidificazione, perché in grotta ci sono 92% di umidità e 11 gradi. Qui sono queste barre poste sotto la tavola armonica, la tastiera del pianoforte, che servono appunto per mantenere una umidità costante, diciamo, per comunque non farlo rovinare, tra l'altro. Fantastico. E oltretutto per un computer, perché ho questo computer con un sistema a 5 tracce per registrare, perché dato che la musica è improvvisata, anche se io preferisco il termine composizione in tempo reale, ecco, la musica quindi viene appunto catturata, e per un potenziale futuro disco o comunque una documentazione di quella che è stata questa esperienza di un mese. Allora diamo il sito, che è www.mariomariani.com. Esatto. Oggi alle 18 mi pare hai un concerto. Oggi, sì, tra poco, stanno arrivando persone che sono qua sedute intorno a me. Io sono tra l'altro sulla valle dell'Infernaccio, sulla gola dell'Infernaccio, e qualche giorno fa c'è stato, tra le varie performance che qui comunque offro, mi piace l'idea di offrire appunto quella musica che viene, non sono astro, ma ci sono anche artisti, amici, attori, ed è stato questo attore che ha letto, un mio amico Claudio Tombini, che ha letto 5 canti dell'inferno sulla gola dell'Infernaccio, che è la gola che si affaccia proprio sotto la mia, tra virgolette, grotta, che si chiama Grotta dei Prosciutti, e io sono vegetariano. ti lasciamo, il pianoforte ti aspetta, grazie Mariano, sì, e complimenti. Grazie a voi, grazie. Ciao, a voi. Fino all'11 agosto, Mario. Assolutamente, ma avete ancora tempo, 2 giorni. MarioMariani.com, ciao! Come sarebbe bello vivere la vita all'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio. Hai mai pensato come sarebbe bello? L'Australia mi apparve improvvisamente all'orizzonte, poco dopo le 9. Mentre il mio sguardo si riempiva di quella terra a lungo rincorsa, mi sorpresi a domandarmi che cosa ne sarebbe rimasto tra 10-20 anni di quel momento. Quali emozioni sarebbero sopravvissute al passare del tempo e quali invece avrei perso per sempre? Ne avrei avuto un ricordo felice o, al contrario, avrei finito per desiderare di tornare indietro e ridisegnare la mia storia? Abbiamo scomodato Cristicchi per chiederti, Alex, rifaresti tutto quello che hai fatto? Tutti i giorni della mia vita rifarrei tutto quello che ho fatto per pur di trovarmi in quel giorno lì famoso, a un passo da Sydney, un passo dall'Australia, sognando l'avventura come si è poi conclusa. Non abbiamo raccontato dell'epilogo di questa avventura, terminata 60 miglia dal mio arrivo, dalla Terra, questo per un peggioramento delle condizioni meteo sfavorevoli. La gente spesso mi dice: caspita, ti mancava così poco, e viene considerato come un fallimento. Invece per me è stato il successo più bello della mia vita, perché dietro, se vogliamo, un fallimento, comunque qualcosa che non era previsto o prevedibile, io ho imparato molto di più rispetto a qualunque altro epilogo, ed è qualcosa che mi ha fatto maturare molto. Da quella barca non solo è sceso un navigatore, ma è sceso un uomo, grazie anche alla capacità di rinunciare un attimo dall'arrivo. Sì, infatti il finale è assolutamente intenso, no? Tu lo dici, non basta un libro per spiegare cosa ho provato in quel momento. Ci riesce però quello scambio di SMS, di messaggi tra te e Francesca, perché Francesca era preoccupata che tu ti sentissi un fallito in quell'istante. Sì, Francesca mi conosceva come una persona molto, molto testarda, molto sempre alla ricerca del botto, diciamo, no? Si è sorpresa anche lei, constatando effettivamente che in quel momento lì avevo fatto un grandissimo salto di qualità personale, perché avevo messo davanti soprattutto il valore della vita, inestimabile rispetto al valore di un'avventura. Ed è stata in tutto e per tutto un grande successo. Alex, un'ultima domanda. Non abbiamo parlato della barca, non abbiamo parlato del supporto di tutto il team, delle persone che hanno lavorato con te, questa barca, sti pad, dove c'era da mangiare, dove c'erano le tue attrezzature, dove c'era anche un panettone. Perché hai portato un panettone in mezzo all'oceano? Ma perché fondamentalmente sono molto molto molto goloso, soprattutto di dolci, quindi volevo in qualche maniera regalarmi nel giorno del mio compleanno, del mio 30° compleanno, qualcosa che mi potesse così dare un po' di gioia. Il panettone, c'era il tiramisù come prima scelta, ma non potevo conservare un tiramisù per così tanto tempo, quindi ho stivato a bordo un panettone. Mi ho fatto veramente grandissima fatica a salirlo, a divorarmelo prima del 15 settembre. E quindi insomma è stata la tua festa? Sì, è stata una festa, purtroppo alcune volte con dei toni un po' tristi, perché comunque la festa prevede insomma gente, prevede grossi scambi di auguri. Lì nel mio piccolo ero quella punta di tristezza che però mi ha fatto anche lì desiderare tornarmene presto a casa. Quando ripensi a quei 300 giorni, vedi un film realizzato da qualcun altro o capisci che sei stato tu? Cioè lo rivivi quotidianamente? La rivivi quotidianamente quell'esperienza? La rivivo quotidianamente, perché quotidianamente cerco di recuperare quelle sensazioni, perché ora anch'io vivo avventure se vogliamo più difficili, no? Ogni tanto mi dico: caspita, ma sei tu quello che ha attraversato il Pacifico, non dirmi che non sai reagire a questa situazione. Quindi mi servo molto di ciò che è stato in barca per vivere anche le mie avventure quotidiane. E serve molto, è un forte punto di riferimento questo. Alex Belini, Il Pacifico a remi, i miei 300 giorni da solo sull'oceano, edito da Longanesi. Grazie davvero. Grazie Alex, complimenti a te, alla tua moglie Francesca, a questa nuova impresa che si chiama Sofia, che è vostra grazie. Figlia nata da pochi mesi. Buonaventura, grazie per essere stato qua con noi. Adesso il GR, poi torniamo con Mine Vaganti insieme al Mago Forest. Mine Vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, queste Mine Vaganti. Nella seconda parte del programma, come da tradizione, ci tuffiamo nella cronaca locale. Anche lì andiamo a cercare un po' di mine vaganti, di bizzarrie, di stravaganze varie. Iniziamo quindi con una rassegna stampa. Durante la settimana andiamo alla ricerca delle notizie più belle e chiamiamo degli opinionisti per commentarle insieme a noi. E quello di oggi ve lo presento così. Mi fa sempre piacere vedere tanta gente che ride, che scherza e che si diverte. Però, scusate se sono retorico, non dobbiamo mai dimenticare che mentre noi siamo qui a ridere, scherzare e divertirci, ci sono persone nel mondo che ridono, scherzano e si divertono molto più di noi. Good night! Diamo il benvenuto a Mago Forest. Ciao, ciao Michele. Ciao Federico, ma da dove hai pescato sta registrazione? Nel tuo sito. Nel mio sito. Io ho un sito. Non lo sapevi. Ma dove hai pescato il mio sito? Allora, come stai? Come stai Michele? Ma non visito il mio sito dal 2001 e non sapevo che ci fosse pure sta cosa. No, no, in verità ti ho raccontato una balla. È stato Luca, che il mio collaboratore al programma, che non so dove abbia scovato. Ce l'ha come suoneria, può essere. È corta come una suoneria. Allora Michele, sei a Poggio Berni, se non erro, dove Bravo. Questa sera è lo spettacolo. Siamo vicini a Sant'Arcangelo di Romagna. Esatto, Sant'Arcangelo, siamo sulle colline riminesi, c'è un panorama bellissimo, si vede una bella fabbrica abbandonata in lontananza, sembra un castello. E stasera rideremo, perché io vengo a fare gli spettacoli per ridere io, perché è il pubblico che fa ridere me più di quanto io faccia ridere il pubblico. Ovviamente la stampa locale, che noi setacciamo, racconta di questa serata. C'è oggi un articolo sul Resto del Carlino, il titolo è: il segreto del mio successo, faccio un'ottima pasta al tonno. E questa è stata un'intervista che hai rilasciato, ma anche questa, prendi le distanze anche da questa intervista, immagino. Esatto, forse sono stato frainteso, non so se questa frase l'ha detta qualcuno, ma mi hanno frainteso. Ho capito. Allora, sei pronto Forest? Ti leggo alcune... Bravo, trovi sempre notizie notiziole che poi sono lo specchio del nostro bizzarro paese. Vediamo come mi sorprendi oggi. Domenica 8 agosto, cioè oggi, il giornale di Brescia, siamo a Roncadelle, il titolo: da oggi è vietato morire. Il sindaco firma un'ordinanza: a causa del patto di stabilità congelati i lavori al cimitero. Nel senso, non ci sono i lavori, non si possono fare i lavori per allargare il cimitero. Lui domani firmerà questa ordinanza dove darà il divieto di morire all'interno del comune. È bellissima questa cosa, caspita. E magari se qualcuno muore poi verrà multato e coi soldi delle multe faranno i lavori al cimitero e poi si continuerà a morire in pace, giusto? Giusto. Comunque, secondo me vedremo le conseguenze appunto di questa ordinanza, che fa abbastanza sorridere. Infatti la provocazione, poi se non muori mai, cioè, fallisce l'INPS, si deve pagare le pensioni, capito? Quindi qualcuno deve morire, iniziamo a dare il buon esempio. Allora passiamo alla Gazzetta di Parma con ben due articoli. Il primo: siamo a Tre Casali, ladri di polli, nella notte rubate 10 galline. Che bello. Che bello. È bello, bello sentire che ci sono ancora i ladri di polli, perché poi sono quei lavori che ormai non vuole fare più nessuno, no? Il ladro di polli, chi vuole farlo? Però così magari qualcuno finirà in galera, perché cioè, ormai in galera ci fanno solo, come si dicevano, i ladri di polli, tutti gli altri possono andare, ma solo come volontari. Ho capito. Oggi per andare in galera devi fare domandina, non so neanche se te l'accettano, devi essere selezionato, cioè non è facile. Devi essere raccomandato, dici. Caspita. Ho capito. Il secondo articolo, sempre dalla Gazzetta di Parma, si parla ancora di ladri. Il ladro pentito porta le rose. E ventenne ruba una bicicletta da 1.000 euro a una donna, individuato dai militari di quartiere, regala alla derubata un mazzo di fiori. Che però aveva rubato al fioraio e gli ha regalato, per scusarti, uno stereo che poi alla fiera dell'est, così. Esatto. Però almeno un ladro gentiluomo, che è Lupin, ladro gentiluomo, cazzo. Però scusa, una bici da 1.000 euro, cazzo, le rose, caspita, se ne ha costate 20 euro non è bello. Niente, pure per farti scusare, perché era un'automobile come minimo, capito? Non vale. O un motorino. Ancora cronaca locale, siamo a Lodi. Allevatore mette condizionatore nella stalla dei maiali. Bello, giusto. Avono caldo. Giusto, per avere il prosciutto più fresco, giusto poi, capito? Bravo, bravo. Mi stai mettendo la prova, mi stai facendo l'esame sì, di sì. Comico. Vediamo se il comico riesce al volo a improvvisare battute. Eh sì, però i titoli ormai, cioè, sono già loro delle battute, quindi è difficile far ridere su questo. Infatti, è superare i titoli o superare il ridicolo che a volte producono i nostri politici è sempre difficile. Andiamo a Macerata, Resto del Carlino: perdono le tracce del pitone mentre dormono in auto. Era custodito in una teca, senza esito per ora le ricerche. Bello, comodo anche, no? Portare un che questo pitone era già scappato, perché era quello che lavorava con la cicciolina, no? Quindi c'è la divizio, no? Questo di scappare. scapparsene. No, però mi viene in mente una barzelletta, forse da cucciolone, non so se del serpente che lasciava la serpentessa, la pitonessa, diceva: guarda, ti lascio, e la serpentessa rispondeva: tanto tornerai da me strisciando. Ah, e beh, ridi, qui devi ridere. Il cucciolone, rimaniamo a livello cucciolone. Ultime due notizie della cronaca locale, la Gazzetta di Mantova. Sulla Mantova a Milano succede questo: bagni chiusi sul treno, serve la sosta pipì, toilette guaste, il controllore dice ai passeggeri: se vi scappa ci fermiamo in stazione. Ma non ci credo, questa qui non è possibile. È l'efficienza questa dei treni italiani. È l'efficienza, giusto. Quindi nei treni veloci cosa fanno? Danno il pannolone allora, perché non ci fermiamo neanche, vediamo un pannolone se avete bisogno. Sull'alta velocità dici che... Sì, l'alta velocità. Poi il Tirreno, siamo a Massa, questa ti piacerà. Coppia si apparta al largo, ma la barchetta affonda. Si erano dimenticati di mettere i tappi nell'imbarcazione. Che bello, caspita. Cosa può essere successo? Sarà colpa di Valerio Scano, no? Far l'amore in tutti i laghi. Era un lago? Al largo del lago? No, era al largo del mare, però... Al insomma, largo del mare, vabbè. Ormai ho detto Valerio Scano, vale lo stesso. Troppo amore in questo caso. Anche no, se la barca che affonda è un po' una metafora dell'amore, che dici? Tu dici che il Titanic era pieno zeppo di innamorati e il troppo amore ha fatto sprofondare anche il Titanic. Michele Forest, volevo anche darti una notizia presa dalla prima pagina del Corriere della Sera, che so che è un argomento a te vicino, a cui sei sensibile. L'INPS in Basilicata scova e cancella 40.000 falsi invalidi. Questa è una bella notizia, no? Dovremmo leggere più spesso queste notizie, perché per una volta mi ricordo che avevo una vecchia battuta, no? Una volta era su questo tema, ma era un fatto vero, che un cieco era stato sorpreso mentre guidava un camioncino. Lui, per difendersi, aveva risposto: guardi, io sono cieco veramente e il camioncino che è bravo. ottima scusa. Allora, questa sera alle 21, Teatro all'Aperto, Poggio Berni, siamo in provincia di Rimini, Rimini, a pochi passi da Rimini, una decina di chilometri, c'è un bel teatrino, un anfiteatro in questo bellissimo paesino in collina, Poggio Berni, c'è fresco, faremo delle risate fresche, non sarà solo, ci sarà Gigi Rock, il Red Rock, ci sarà anche un mentalista che ho scoperto in Moldavia che si chiama... Kermit Barbierischi. Sì. Sai che non ho mai visto il tuo spettacolo dal vivo, ma canti, ma balli, nessuno, anche nessuno l'ha mai visto. Per questo continuo a farlo in giro, perché sembra sempre nuovo. Lo possiamo anche io. C'è sul tuo sito, però. No, non è vero. È un po' il meglio, se si può dire, del mio repertorio, o il peggio del mio repertorio. Comunque mi piace andare in giro d'estate, fare questo scambio di energia con il pubblico dal vivo. Ieri sera eravamo a Grotta a Mare, dove c'è un bellissimo festival. Tamara amore mio, risalendo verso casa. Stasera è l'ultima sera della tournée, poi vado in vacanza anch'io, quindi chiudiamo stasera, okay. Poggio Berni. Questo era un avviso per noi di non disturbarti nelle prossime puntate. È arrivato, chiaramente. Non cercatemi perché non sono in vacanza. Mago Forest, Amine Vagante, grazie davvero per aver commentato con noi la cronaca locale. Ciao, buona serata e buona vacanza. Ciao Federico, ciao Michele. Ciao. Continuiamo a sfogliare la cronaca locale per andare a cercare un po' di Mine Vaganti. Insomma, vogliamo sentire anche un po' le voci dei protagonisti di alcune notizie che ci hanno incuriosito durante la settimana. La prima l'abbiamo trovata sul secolo XIX, il titolo: cremati nell'urna con i colori della squadra del cuore. Ok, c'è anche qualcosa di apparentemente macabro, e invece no, insomma, l'idea è stata proprio quella di creare e ideare un oggetto. È stato chiamato in causa un artista, tal Luigi Cassiano, è stato coniato uno slogan: tifosi da morire anche nell'eternità, proprio per creare questa urna pensata per gli appassionati di calcio e per i tifosi in vita e in morte di una squadra. E abbiamo con noi il presidente dell'associazione per la cremazione, patrocinata dal comune di Albenga, che ha inventato e ha sostenuto queste urne cenerarie. Diamo il benvenuto a Nicola Nato. Ciao Nicola. Pronto Nicola? Pronto? Ciao Nicola. Ciao. Ciao, buona domenica. Buona domenica anche a voi. Sei in viaggio? Sì, sono un po' in giro con la famiglia. Ho capito, infatti sentivamo dei rumori in movimento. E, Nicola, raccontaci, cosa vi è saltato in mente? Perché avete ideato una urna con i colori della squadra del cuore? Perché abbiamo avuto veramente un grande risultato di iscritti con questa iniziativa, che poi ci chiedevano, anche qualcuno ce l'ha chiesta. Ci ha chiesto qualcuno se poteva spargere le ceneri presso un campo sportivo, e da lì è scattata la nostra idea. E poi ci siamo messi in contatto con il signor Cassiano, che sapevamo che aveva fatto delle urne particolari per i cani. Sì. E quindi gli abbiamo dato questa idea, insomma abbiamo concretizzato, e da qualche mese siamo un po' richiesti come urne con i colori delle squadre. Quali sono le squadre più gettonate? Genoa, Sampdoria, insomma, abbiamo un po' di tutto. Quello che volevo anche comunicare, che sull'urnetta noi potremmo scrivere, a richiesta dei parenti, il nome e le date. Il nome, scusa? Il nome del defunto e le date del defunto. Ah, okay. Si possono scrivere, perché sono decorati a mano. Sì, ok, no, per un attimo ho temuto che poteste anche far autografare l'urna con uno dei calciatori preferiti. Bravissimo, anche quello. Mettere, lasciare la firma, oppure scrivere il nome e i dati del defunto proprio sull'urnetta, così rimane lì. Ho capito. È molto, molto bella da vedere. Ma che forma ha, di un pallone da calcio? Sì. La forma è quella di un pallone? È uguale identica al pallone, c'è la base un po' piatta perché sì, deve appoggiare, sotto ci sono dei levitini con una piastrina che si svitano, si infilano dentro le ceneri, dentro un pacchetto di plastica. Sì. E poi si chiudono, si avvitano e rimangono. E quanto costa tutto ciò? Più o meno? Quello, diciamo, che rientra nel servizio, non è che ha un costo, perché non è una cosa eccessiva. Mm-hmm. Rientra in tutto il costo del servizio, viene dato omaggio questo urnetta. Oh, ho capito. Tra l'altro leggevo che non è la prima novità, c'era anche un'urna del cacciatore a forma di fagiano e quella dell'esploratore a forma di mappamondo. Sì, questo signor Cassiano, Luigi precisamente, che comunque vive a Milano, sì, vive a Milano, sta facendo tutte queste messe particolari, ripeto, anche per i cagnolini, e quindi noi insomma ci siamo inseriti in quest'ottica. In questo mercato, capito. E tu perché squadra tifi? Regina! ho sentito l'eco. Calabrese del Reggio Calabria, amico degli sposi d'infanzia, sì, non posso che te fare per la regina. Oh, ho capito. È prevista anche l'urna con i colori della regina, nel caso? Non ce l'ho. Adesso non ce l'ho perché è presto. 100 km di distanza, quindi non è richiesta in questa nostra regione. Ho capito, grazie davvero Nicola per averci raccontato questo fatto. L'abbiamo trovato sul Secolo XIX, il titolo era Cremati nell'urna con i colori della squadra del cuore. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. E questa allegra marcetta di feliniana memoria, anche se credo sia stata sfruttata recentemente per qualche spot pubblicitario, ci porta verso la prossima notizia, che abbiamo trovato invece sul Gazzettino. Il titolo: prof di allattamento, la poppata è vietata. A Bolzano l'esame per diventare consulente professionale. È una storia che ha fatto il giro del mondo, perché è stata ripresa anche dal New York Times con una divertentissima vignetta. Vede protagonista la dottoressa Chiara Pozzi Perteghella, che è qua con noi. Ciao Chiara. Buonasera a tutti. Stavi canticchiando, ti abbiamo sentito. Mi ha fatto ridere la canzone, sì. È un grande must. Allora, Chiara, tu sei farmacista, se non erro? Sì, sono farmacista a Bassano del Grappa, e da quando sono diventata mamma e ho aderito a un progetto nazionale di farmacia amica dell'allattamento per sostenere le mamme in questo momento che può essere anche molto difficile. Mm-hmm. E cioè, quindi... proviamo a pensare quando la mamma viene a prendere il fatidico il flacone di latte in polvere, no? Perché crede di non avere latte, il farmacista le può dare un grande aiuto. Ah, quindi insomma sei una sorta di consulente proprio per sull'allattamento, c'è cioè sì, questo, diciamo cioè questo che progetto tutto importante. Il personale della farmacia ha fatto corsi, e, insomma siamo molto formati su questo. Mm-hmm. E io per migliorare le mie competenze volevo fare questo esame per diventare consulente professionale, che è una qualifica ancora superiore. Ecco, esame però che non hai potuto sostenere. No, un esame che non ho voluto sostenere perché gli organizzatori mi avevano proposto di tenere mio figlio di 3 mesi e mezzo fuori dalla porta e di andarlo a allattare non durante l'esame, cioè io mi dovevo alzare sì. e andarlo a allattare fuori, ma il tempo che perdevo non potevo recuperarlo, oppure mi potevo togliere il latte e farglielo dare col biberon. Fantastico, cioè un paradosso, e... l'esame per aiutare le mamme ad allattare. Esatto, e io insomma ho smosso Maria Monti e io non ho ottenuto nulla, ma alla fine... ho richiesto persino una stanza a parte perché la motivazione era che il bambino poteva disturbare, effettivamente un neonato potrebbe disturbare gli altri candidati, io capisco, però in una stanza a parte non avrei disturbato nessuno. Ma anche perché comunque i candidati immagino fossero sensibili all'argomento. Beh, però l'esame è molto difficile e quindi è anche giusto che ci sia silenzio, un rigoroso silenzio che ti permette di concentrarti. Cioè, l'esame dura 2 ore e mezza la mattina, 2 ore e mezza il pomeriggio, il tempo è abbondantemente insomma disponibile, no, per rispondere a tutte le domande, però insomma se c'è un bambino che piange dà fastidio, però in una stanza a parte per le mamme tutto questo era possibile. I bimbi, cioè non solo il mio, i bimbi di tutte le candidate nutrici mm-hmm. di tutto il mondo, perché questo esame si fa lo stesso giorno in tutto il mondo, in vari paesi, insomma, no? Quindi un'organizzazione complessa, anche un'associazione, un'organizzazione molto complessa che però a mio parere paga il prezzo di essere americana, e in America purtroppo le donne per questioni, cioè per le politiche della famiglia, no, ritornano al lavoro molto presto, quindi per loro è normale togliersi il latte e farlo dare da qualcun altro. Quindi per questa organizzazione che il bimbo stesse lontano dalla mamma e che qualcuno gli desse il latte era la normalità, invece per noi in Europa questo è molto differente. Cioè, quindi la tua protesta, vicino a mio figlio, la tua protesta è stata quella di non presentarti all'esame. Io non mi sono presentata all'esame perché non mi sentivo coerente né come madre né come professionista, cioè come posso avere poi, voglio dire, il mio titolo in tasca, sostenere le mamme, se quella volta lì non l'ho fatto neanche con me stessa. Cioè, come posso dire alle mamme tenetevi vicino vostro figlio se non l'ho fatto io? Insomma, quindi una scelta appunto di coerenza. Potrai ridarlo questo esame? Sì, okay. Cioè, quando cambieranno il regolamento spero che cambino il regolamento e potrò il prossimo anno, sempre l'ultimo lunedì di luglio, sostenere l'esame. No. Però bisogna, cioè, che questa cosa, come dire, cambi per tutte le, mica solo per me. Ah, quindi tu vuoi proprio che venga cambiato il regolamento, perché tuo figlio prima o poi smetterà di prendere il latte. Beh, tu invece... io il prossimo anno il prossimo anno può darsi che lo prenda ancora, ma certamente non pretenderò di portarlo con me in aula. Ok, va bene, insomma. Voglio dire, il prossimo anno il bambino avrà 14 mesi, 15 mesi e potrà stare qualche ora senza la sua mamma. Invece un bimbo di 3 mesi e mezzo deve stare molto vicino alla sua mamma. Insomma, Chiara, ci hai convinto, la tua storia appunto ha fatto il giro del mondo, quindi volevamo raccontarla anche noi. E grazie, complimenti e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, ciao, anche a voi. Buona domenica. Prof di allattamento, la poppata è vietata, questo era il titolo sul Gazzettino. Cercasi mine vaganti, questo è un po' il contenuto del promo che gira su Radio 24 durante la settimana. Se anche voi vi sentite mine vaganti né qualcosa, potete proporci la vostra storia. L'indirizzo è minevaganti@radio24.it, indirizzo che ha utilizzato Fabio Boccoletti, che è qua con noi. Ciao Fabio. Buonasera. buonasera a tutti. Buonasera. Allora Fabio, diciamo che allora il tuo essere mine vagante si concretizza nelle tue fotografie, che sono tutte storte, giusto? Tutte storte, esattamente. E la cosa particolare della foto è che è storta perché io sono storto. Dopo un incidente stradale ho perso un braccio e ciononostante ho cominciato a fare il fotografo. E la caratteristica delle foto è che sono tutte con l'inquadratura storta, però piace. Questo è importante. No, Fabio, tu nell'email hai sintetizzato un po' la tua storia. Dici appunto, fino all'anno 2000 eri un informatico e un motociclista. Poi una sera di settembre un omino, dici, con un tasso alcolico decisamente troppo elevato, ha avuto la brillante idea di percorrere un tratto di strada in senso opposto. Esatto, e da quel giorno tu eri su quel tratto, e da quel giorno sei solo un informatico con un braccio in meno, una milza in meno, una gamba ricostruita, oltre che 14 giorni di coma. Infatti, esatto, un rottame umano, però ciononostante mi sono trovato una cosa divertente da fare. Ho scoperto che mi piace tantissimo fare le fotografie. E la cosa positiva, piace a tanti fare fotografie, ma la cosa positiva è che ho trovato diverse persone che apprezzavano le mie foto e hanno cominciato a pagarmele. Di conseguenza è diventata anche una professione. Cioè adesso tu sei il fotografo di professione? Sì, esatto, mi sono iscritto all'Albo Nazionale Fotografi Professionisti, apro lo studio, lo apro il 1° settembre. Però è già 3 anni che ho la mia partita IVA e faccio proprio il fotografo come lavoro. Ma e come mai proprio la fotografia? Nel senso, tu adesso si sente che sei uno molto autoironico, con lo di bello spirito, ma immagino tu abbia passato anche i momenti di depressione e di sconforto dopo l'incidente, o no? Sicuramente sì, però la cosa positiva è che la memoria è molto labile, tipo pesce rosso. Sì? Quindi le cose belle che c'erano prima, onestamente, mi ricordo poco. E poi tutto sommato, cioè, il mondo è affrontabile anche con un braccio solo. Bisogna solo pensare in modo un po' diverso. Ci si riesce comunque a allacciare la cravatta, ci si riesce a mettere le scarpe, riesco a sciare, quindi si fa tutto. Bisogna solo pensare a un modo diverso di farlo. E proprio questa diversità può essere anche una cosa in più, nel senso, è un taglio diverso che do a un prodotto che fanno in tanti, perché a Milano siamo 70.000 fotografi, credo, sono tantissimi. Ma tra l'altro le foto le riconosci. Sai che è un po' è assurdo, perché non ci avevo mai pensato, nel senso, per fare una bella foto si utilizzano tutte e due le mani, ovviamente, perché così tieni la macchina fotografica in bolla perlomeno. Esatto. Con una mano solo, tu usi una macchina fotografica professionale, quindi pesante. Io sì, ho una reflex, tra l'altro molto pesante, perché le ottiche belle pesano veramente moltissimo. E niente, però non è tanto per il peso della macchina che sono storto, ma è perché, mancando il braccio sinistro, ho tutto un sistema di riferimento che si sposta sulla sinistra. Cioè io vado, quello che io per me è dritto è storto per gli altri. Io le foto le faccio dritte dal mio punto di vista, però guardandole con un software tipo con Lightroom, così, che ha delle impostazioni che fa vedere le linee dritte, è tutto clamorosamente inclinato di 15 gradi. Quindi un artista inconsapevole anche. Inconsapevole, esatto. Esatto, questa è una cosa positiva. E nella tua storia che ci hai raccontato via mail c'è un altro aspetto che mi ha incuriosito. E tu dici: Milano è una società fondata sull'aperitivo. Sull'aperitivo, cioè, esattamente. Il tuo essere fotografo passa per l'aperitivo? Assolutamente, è stata la mia fortuna l'aperitivo, perché a Milano, dato che molte persone che lavorano a Milano abitano distante, l'aperitivo a Milano è stato trasformato in una sorta di microcena. Sì. E tutte le persone, specialmente le persone che hanno una posizione di rilievo nelle aziende, fanno l'aperitivo prima di tornare a casa. E io vado a fare l'aperitivo in tutti i locali più blasonati, diciamo così, di Milano, con la macchina fotografica, e fotografo quello che mi piace, sempre chiedendo il permesso. Poi do il mio biglietto da visita e dico: guardi, se vuole che le invii le foto che ho fatto, questo è il mio indirizzo, qua ci sono i miei dati. E grazie a questo sistema ho trovato 3 clienti veramente molto importanti. E tu sei sicuro che le foto siano storte per colpa della mano in meno e non per uno spritz di troppo, vero? No, io non bevo alcol, perché io sono così proprio perché uno si è bevuto tanto alcol. No, io poi, come potrete notare, sono abbastanza spigliato di mio, senza bisogno di bere. Quindi no, assolutamente, per me è controproducente al massimo bere alcol, perché mi spengo, proprio mi addormento. Fabio, è insomma una bella storia, sei veramente una mina vagante come quelle che ci piace conoscere. Vuoi darci un sito per vedere anche i tuoi lavori? Mm-hmm. Molto volentieri. Allora, io sono Boccaletti di cognome e il mio soprannome è Bocca, Mi raccomando, ho scritto con la doppia K e non con la doppia C, perché altrimenti è un sito di signorine dell'amor profano. Molto bene. Bocca con la K. www.bocca.it con la K. E in bocca al lupo allora per l'inizio di questa tua nuova vita. Ciao. Grazie, ciao Fabio, ciao, buona domenica. Buona serata a tutti. Ciao. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Alla notte no. E un'altra mail che abbiamo ricevuto all'indirizzo minevaganti@radio24.it diceva: Federico, tu che cerchi Mine Vaganti, li conosci quelli della notte? No, è stata la mia risposta, ho approfondito e li ho trovati. Sono un gruppo di biologi e speleologi che nel tempo libero si occupano di tutela dei pipistrelli. Non potevamo non conoscerli. Diamo il benvenuto a Pino Rivalta dell'associazione Quelli della Notte. Ciao Pino. Grazie, ciao, grazie a voi. Tu sei un biologo? Sei un biologo nella vita? Sì, sono biologo, ora in pensione e ho sempre avuto interessi di tipo naturalistico, perché prima lavoravo nella sanità, però ho mantenuto questi grossi interessi per la natura sia lontana che vicina, ecco. Insomma, i pipistrelli ormai sono una natura vicina, perché sì, se ne vedono ancora soprattutto nelle tue zone. Io tra l'altro abitiamo vicino, ho scoperto, quindi sono nostre. Sono di Bologna, abbiamo con altri amici biologi e non creato nel 2006 questa associazione Quelli della Notte. Ci siamo ispirati un po' alla nota sigla, e con l'intenzione di cercare di studiare innanzitutto questi animali che abbiamo praticamente attorno a Bologna, attorno a casa, e cercare di comunicare un po' a tutti l'importanza scientifica, ecologica tra l'altro, sai, è un po' l'estate dei pipistrelli. Tanti comuni hanno adottato queste bat box perché sono veramente un deterrente contro le zanzare, un deterrente utile e non nocivo. Quindi ben vengano. Voi studiate i movimenti, studiate la comunicazione, utilizzate un bat detector. Cosa sarebbe? Che fa molto fa molto Batman. Sì, l'abbiamo chiamato così, cioè non l'abbiamo chiamato, si chiama così. Uno strumento importante, perché i pipistrelli sono noti per la loro ecolocazione, cioè loro emettono ultrasuoni dalla bocca o dal naso, a seconda delle specie. Questi ultrasuoni colpiscono l'oggetto che hanno davanti, che può essere un albero, una roccia, una farfalla, un insetto, eccetera, e rimbalzano nelle orecchie. Il cervello immediatamente li elabora e quindi loro sanno esattamente a che distanza e che tipo di oggetto hanno davanti. Questo bat detector ha la funzione di abbassare la soglia di questi ultrasuoni per renderla udibile all'orecchio umano, e quindi è praticamente un registratore che dopo ci trasmette questi suoni in modo udibile a noi. Ci siamo fatti spedire un po' di questi suoni. Andiamo ad ascoltare uno proprio per dare l'idea di quello che è. La specie, se non erro, Rhinolophus ferrum, può essere? Rhinolopho è ferro di cavallo, perché ha una lamina nasale che sembra un ferro di cavallo, che in fondo è una parabola dalla quale partono gli ultrasuoni più concentrati. Andiamo ad ascoltare questi ultrasuoni. Sono fastidiosissimi, ma insomma fa parte sì, appunto del loro essere. Sono dei rumori molto differenziati da una specie all'altra. Allora anche in questo modo, senza disturbarli, quasi senza vederli, abbiamo la possibilità di capire di notte in questi ambienti di bosco, eccetera, o anche di fiume, che tipo di specie volano in questa zona. Quindi voi organizzate delle serate, andate alla ricerca, bisogna essere esperti in materia, se siete tutti biologi o comunque legati a queste discipline, o c'è anche qualche appassionato esterno? Sono sempre degli appassionati, perché poi è una cosa che con l'esperienza è fattibile da parte di tutti, insomma, chiunque interessato può partecipare a queste serate notturne che facciamo proprio per anche cercare di far conoscere meglio questo tipo di animale che purtroppo da noi è negletto, ma perché ci sono vecchie leggende che circolano ancora, si fa la pipì in testa e sperano i capelli, non è vero, porta male, assolutamente non è vero, mentre in Oriente è tutto il contrario, il pipistrello in Cina, parlavo proprio l'altro giorno con una ragazza cinese, mi ha confermato quello che avevo già letto in giro, in effetti il pipistrello è un animale che porta fortuna, quindi viene... vengono regalati dei vasi decorati a pipistrelli per i matrimoni eccetera, tutto il contrario dalle nostre parti. Ma voi andate anche in grotta o solo all'aperto? Sì. Andiamo anche in grotta cercando sempre di non disturbarli nel periodo in cui ci sono le cosiddette nursery, cioè le femmine si radunano intorno a maggio-giugno per partorire tutti insieme, i maschi vengono tenuti lontani e formano dei gruppi anche numerosi di varie decine di esemplari, per cui verifichiamo anche le nascite, quante sono eccetera, ne abbiamo qua a Bologna, ne abbiamo trovate anche nella zona di Riccione, nella grotta di Onferno, e in altri casi invece andiamo agli ingressi delle grotte per osservare, a volte anche catturare con reti che poi vengono immediatamente liberati, misurando vari parametri anatomici per capire quante specie abbiamo nella zona. Ad esempio nella regione Emilia-Romagna sono note 25 specie. Nel parco dei gessi, dove lavoriamo generalmente, i gessi bolognesi, sono ben 18, e in una cava, ex cava abbandonata, questo Monte Croara, nel centro del parco dei gessi, proprio a ridosso di Bologna, ci sono ben 13 specie diverse. Insomma, sono un segnale anche della vivacità del territorio, dello stato, dell'ambiente. La salute dell'ambiente, certo, perché abbiamo avuto un aumento negli ultimi 15 anni di questi animali. Questo vuol dire che i pesticidi, dato che loro sono legati, sono insettivori, quindi hanno bisogno di mangiare una quantità di insetti generalmente pari al loro peso a livello giornaliero, questo fatto indica che la salute dell'ambiente in queste zone è buona. Allora diamo il sito intanto, che è www.chirotteri.com. C'è anche un numero telefonico, adesso non lo ripetiamo in radio, ma chi volesse informazioni lo può recuperare dal sito. Problemi con i pipistrelli? Ecco, la risposta è in questo cellulare, perché se qualcuno si trova un pipistrello in casa, per esempio, non sa cosa fare prima di chiuderlo dentro a una stanza e scappare gridando, vi può telefonare e voi date tutte le dritte sul comunque come comportarsi. Il sito Quelli della Notte, basta digitare il sito e da lì uno ha tutte le informazioni. Ottimo. Necessarie, diciamo. Batman ti piace come film? Sì e no. Sì e no, okay, sì e no. Purtroppo il pipistrello è stato un orribile film in cui si vede questa gente attaccata dai pipistrelli, cose veramente incredibili, che non è un peccato, perché si fa fatica a fare questi lavori e quindi alla fine basta magari un film che tutto quello che uno ha cercato di creare la gente lo dimentica e crede a quello che ha visto al cinema. Esatto. Pino Rivalta, la mina vagante di oggi, grazie davvero, ciao, grazie a voi, buon lavoro. www.chirotteri.com. Mine vaganti. È l'ultima parte di Mine vaganti e come sempre dedichiamo questo spazio ad artisti, prevalentemente musicisti, musicisti non banali, musicisti originali, musicisti che cercano altri modi di fare musica. Sì, perché anche quella che andiamo ad ascoltare ora è musica. Thank you. Queste che state ascoltando sono pietre sonore e sono sculture che suonano a volte grazie al vento, altre volte grazie alla musicalità di altre pietre o perché vengono sfiorate da altre pietre ancora. E l'artista che per primo ha creato queste pietre sonore in Italia è un sardo, si chiama Pinuccio Sciola ed è qua con noi. Ciao Pinuccio. Ciao, grazie. Grazie a te per essere con noi. È sempre difficile credere che questa musica nasca da dei pezzi di roccia, invece è così. Beh, nasca, è dentro la roccia da sempre. Come dentro la roccia da sempre? In particolare quello che stiamo ascoltando sotto è un calcare e se ascoltiamo bene questo è un suono liquido, semplicemente perché il calcare dal punto di vista geologico non è altro che acqua fossilizzata. Per cui la memoria della materia acqua durante la glaciazione è rimasta impressa che basta accarezzarla con una mano che viene fuori il suono della pietra. Quindi quelle che stiamo ascoltando sono pietre toccate da una mano? È appena sfiorate. Questa è la cosa straordinaria che, e siccome tutti sappiamo che tutti i suoni sono dati da una vibrazione, ecco che si riesce a far sì che la pietra possa vibrare e quindi emettere i suoni. Io ho sempre raccontato che questi non sono i miei suoni, che io non ho mai pensato di trovare nuove strade, ho semplicemente trovato il modo di dare ad una materia apparentemente muta un suono che è il suo suono, perché io non effettuo nessun tipo di percussione. E questo esiste in tutte le civiltà, in tutte le culture, pietra suono uguale percussione. In questo caso soltanto sfiorandola vengono fuori, creando queste mini vibrazioni, i suoni che sono insiti all'interno della pietra da sempre, quindi dalla sua formazione. Ma quindi quello che fai tu è dare la giusta forma alla pietra? Io do la giusta forma utilizzando poi spessissimo la forma naturale della pietra, che è con opportuni tagli e poi con una con tanto amore, voglio dire, perché accarezzare, quindi conoscere la materia, sfiorarla, e faccio sì che vengano fuori i suoni che sono al suo interno. Abbiamo anche degli altri file, ne ascoltiamo, ascoltiamo il secondo, così ci dici tu, Pinuccio, cosa stiamo ascoltando. Questa sembra una pietra più metallica. Sì, questa è più metallica, è un basalto colonnare che è durissimo, quasi vetroso. Comunque possiamo approfittare, io di fronte a me c'ho una pietra di calcare, io in diretta potrei adesso poggiare accanto il telefono e farvi ascoltare. Ok, aspetta un attimo prima, tenta di farcela vedere questa pietra, com'è fatta visivamente? Ma questa è un calcare, quindi viene da un blocco molto grande, diversamente dai basalti che utilizzo le pietre naturali. Questo è un parallelepipedo con una inclinazione, per cui ecco dai tagli più profondi naturalmente vengono fuori i bassi, mentre i tagli meno profondi vengono fuori i toni più squillanti, quelli più alti. Ok, allora dimmi. Faccio ascoltare, premetto comunque che io non voglio fare strumenti musicali di pietra, soltanto mi interessa che la gente si renda conto che dentro ogni materia c'è la propria memoria, in questo caso il suono della pietra. Ok, allora appoggia il cellulare vicino a questa pietra che andrai a sfiorare. Da brivido, Pinuccio. Che ci sono quasi dei suoni celestiali dentro sì. Questa pietra. Anzi, da farci la suoneria proprio del cellulare che hai utilizzato. Sì. Ma Pinuccio, c'è qualcuno che utilizza le tue pietre come strumento musicale? Vengono inserite? Sì, adesso stiamo facendo diversi concerti, addirittura stiamo preparando con due compositori, quindi una composizione a quattro mani per un concerto che sarà al Teatro del Conservatorio di Cagliari ai primi di ottobre. Mm-hmm. E la cosa molto interessante che mi piace ricordare è che appena un mese fa abbiamo piazzato una grande scultura sonora nel cortile, nei giardini della Triennale di Milano, quale omaggio ai 100 anni di Gillo Dof. È stata una cosa molto bella, una bella festa con tanti amici, per cui attraverso questa pietra credo che sentiremo per sempre la voce di questo nostro grande amico che è Gillo. Quindi pietra sonora che si può vedere e si può anche ascoltare, basta toccarla? Sì, bisogna chiedere qualcuno che abbiamo preparato, diciamo così, all'interno della Triennale, perché c'è sempre la paura che quando uno sente pietra sonora, siccome è insito nella mente, che vada a picchiarla, allora c'è il pericolo che si possa anche rompere, perché la pietra va solamente accarezzata. Questa è la cosa bella, è la cosa che a me interessa, proprio che la gente si avvicini con amore a questa materia, da sempre considerata proprio muta o opaca, rigida, mentre tutto al contrario è elastica, trasparente, sonora, in modo inverosimile quasi. Pinuccio, tu non è da tantissime, dal 96 o dal 97, no? Che hai esordito, diciamo, con le pietre sonore, o sì. Da sempre hai questa tua vicinanza alla musicalità? Da sempre, in quanto il mio paese è piatto, non c'erano delle pietre. Quando ho iniziato da piccolissimi, naturalmente utilizzavo quello che trovavo in giro. Martello e scalpello, pietre diverse, mi rispondevano suoni differenti, senza pensare di aver inventato niente, come è successo, però io andavo registrando questi suoni, che poi questo fu accumulato per anni, si è sviluppato nei primi anni 90 e adesso sto lavorando moltissimo, ma io premetto sempre di essere uno scultore e il suono è un valore aggiunto che è insito dentro la materia. E ripeto, io credo di avere una missione che è quella di ricreare un nuovo rapporto con la natura. E su questo credo che mi stia aiutando molto anche San Francesco, perché una grande mostra delle pietre sonore è stata effettuata proprio nella piazza inferiore di San Francesco ad Assisi, e ultimamente anche con dei semi di pietra che sono diventati semi della pace, partendo da questo luogo sacro qual è la Basilica di San Francesco. E ci sono pietre che invece non sei riuscito a suonare? Bene, sono tante le pietre. Per emettere il suono la pietra deve essere molto dura, e quindi che abbia la possibilità di vibrare, mentre ci sono le arenarie, anche i graniti, lo dice la parola, è fatto di grani, che spesso non sono neanche molto amalgamati. Se uno cerca di fare una lama fine si spezza subito, e quindi ci sono tante pietre che proprio non suonano, perché per la loro conformazione molecolare non hanno inglobato, voglio dire, alla sua origine i suoni che sono al contrario insiti in tante altre pietre, altre materie. Mm-hmm. Ecco, quindi anche quello che stiamo ascoltando in questo momento sono mani, sono le 10 dita che comunque accarezzano, toccano, sì, spesso, passano, come dicevi all'inizio, anche accarezzandole con un altro pezzo di pietra della stessa materia, ecco. Ma sempre soltanto sfiorandola, mai a percussione. E si va a orecchio o hai realizzato anche degli spartiti per pietra? No, beh, adesso prima il fatto era molto più intuitivo, adesso lavorando con altri musicisti, altri compositori, la cosa è un po' più studiata, anche se, ripeto ancora, io non voglio fare strumenti musicali di pietra, ma far sì che la gente si renda conto che dentro questa materia apparentemente muta c'è un suono, c'è la propria memoria. Diciamo che non sono tra i più comodi da trasportare, ecco. Però si riesce, tranquillamente. Vogliamo ricordare in chiusura, Pinuccio, qualcuna delle, oltre a questa che c'è qui a Milano e che è ancora visibile, altre esposizioni curiose che hai fatto in giro per il mondo? La Triennale è chiaro che ormai è permanente, quello è patrimonio della Triennale, ma anni fa ne aveva scelto una molto grande, Renzo Piano, per il Parco della Musica di Roma. 3 anni fa avevo fatto una grande mostra a Bologna, nel parco di Villa delle Rose, del Museo d'Arte Moderna, dove è rimasta anche lì una pietra, e lì è stato straordinario perché era tutto impostato sugli suoni, e lo stesso titolo della mostra era Impianto Sonoro Scolpito, quindi c'erano tutte le pietre pre-registrate che poi, avvicinandosi tramite dei sensori, emettevano i propri suoni, una cosa molto, molto suggestiva, che è l'accostamento tra l'elemento primo della terra, appunto la pietra, con la massima tecnologia. Mm-hmm. Allora, il sito è pinuccioasciola.net. Sì. Vi consiglio anche di andare a vedere su YouTube, perché ci sono vari video dove tu suoni queste pietre. Non ti abbiamo fatto la domanda più banale: si può accordare una pietra? Certo che si può accordare, ecco. Anche se non è uno strumento musicale, però per certi suoni. No, ma posso aggiungere di più, che quando facciamo le registrazioni, sì, siccome abbiamo appurato che all'interno ci sono degli ultrasuoni che non riusciamo a percepire, allora applichiamo dei microfoni a ventosa appiccicati alla pietra, collegati al computer. Fantastico. Effettuata tutta la registrazione, poi il computer ci risponde con un grafico, mm-hmm, sulle diverse altezze sonore, naturalmente. Beh, stampato questo foglio, non è altro che l'elettrocardiogramma della pietra. Sì, è vero. La pietra è il cuore, è che batte dentro. È così vivo, ma poi basta pensare che qualsiasi elemento della tecnologia computerizzata funziona con la pietra. È vero. Grazie Pinuccio per averci grazie fatto ascoltare la tua arte. Ciao. Grazie tante. Buona Ciao domenica. Un grazie a Margherita Ina e a Luca Rinaldi, che con me hanno scritto il programma. Un grazie a Rosa, al centralino, a Paolo Corleoni, alla parte tecnica. minevaganti@radio24.it è l'indirizzo se volete contattarci. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend. Ciao!